giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Due anziane investite mentre attraversano a Villa Santina. Una è morta, l'altra è grave. È accaduto verso le 21. La causa? La guidatrice dell'auto investitrice forse abbagliata dall'ultima luce del sole al tramonto. Tavolo siccità si riunirà per la prima volta lunedì per iniziativa della regione e riunirà tutti i soggetti coinvolti nella crisi idrica, dai sindaci ai consorsi di bonifica all'Agenzia per la protezione dell'ambiente. La riorganizzazione del sistema sanitario di fronte alla nuova ondata di casi positivi. I pazienti con Covid ma asintomatici saranno curati nei reparti competenti per le relative patologie, non più nelle infettivologie. E mentre in Veneto il presidente Zaia propone di reintegrare i sanitari non vaccinati, da noi l'assessore Riccardi tiene fermo il vincolo dell'immunizzazione. A Gorizia, presentata alla giunta dell'amministrazione Ziberna Bis, 10 assessori, 5 riconfermati, vice sindaca Chiara Gatta con delega all'urbanistica. Il primo cittadino tiene per sé la competenza su Gorizia, capitale della cultura 2025. Le università di Trieste e Udine elaboreranno uno studio per lo sviluppo infrastrutturale di Porto Nogaro. La regione ha firmato ieri un'intesa con i due atenei. Servirà a creare le condizioni più favorevoli al futuro insediamento di un impianto della Danieli, considerato strategico dal Friuli Venezia Giulia. Sale l'età media degli artigiani, è cresciuta del 42% la quota degli over 60, mentre in circa 10 anni si è dimezzata la quantità di addetti sotto i 35 anni. È la foto del settore scattata dall'ufficio studi di Confartigianato Udine. Gli eventi dell'estate al Castello di San Giusto a Trieste, gli Incognito, uno dei gruppi più influenti sulla scena della musica soul funk. A Udine il gruppo californiano West Coast Chamber Jazz Trio. A Palmanova i Gogol Bordello, band che mescola le melodie gitane dell'Est Europa al punk e al rock. Casarza al tempo di Pierpaolo Pasolini, scatti in bianco e nero, visi di persone e un paesaggio urbano completamente diverso da quello attuale. Una mostra fotografica che si inaugura stamattina ripropone le atmosfere del paese così come le vide e le viste il grande scrittore. Sabato 9 luglio 2022, sono le 7:20 minuti e 45 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Livia Liberatore e Antonio Cagliazza. Cielo prevalentemente sereno sulla regione e con le temperature registrate alle 6, a Trieste 20 gradi e 5, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 21 gradi e mezzo. A Gorizia 18, a Pordenone 16, a Udine 14 e 5, Tolmezzo 13, Forni di Sopra 9 e mezzo, Tarvisio 6, Sappada 6 e 5, Piancavallo 13, Monte Zoncolan 9 gradi, Monte Lussari 6 e mezzo, a Lignano 23 e a Grado 21 e la temperatura del mare è di 25 gradi e mezzo. Le previsioni dell'ARPA regionale per oggi: cielo in genere sereno con temperature in leggero calo ma in linea con la media stagionale. Dal pomeriggio locale nuvolosità su monti e zone orientali, sulla costa soffierà borino di primo mattino, poi brezza. Un'anziana è morta e un'altra è ferita in modo grave a seguito di un incidente stradale avvenuto attorno alle 21 di ieri a Villa Santina. Le due stavano rientrando a casa quando sono state travolte da un'auto mentre attraversavano Piazza Cantore. La vittima, morta praticamente all'istante, aveva 89 anni. L'amica, di 83 anni, è invece rimasta ferita ed è stata portata in codice rosso all'ospedale di Udine, dove è ricoverata. L'auto che le ha investite, guidata da una donna di 56 anni, procedeva a velocità regolare. Fra le ipotesi dell'incidente c'è che la visibilità della conducente fosse ridotta perché abbagliata dagli ultimi raggi del sole al tramonto. Indagano i carabinieri di Gemona. Parliamo del clima. Lunedì la regione farà il punto sulla siccità riunendo tutti i soggetti coinvolti. Il consorzio della pianura friulana ha intanto già stilato l'elenco delle colture a cui dare con priorità le risorse idriche disponibili: frutteti e vigneti, seguiti dal mais e all'ultimo posto il secondo raccolto della soia. Una situazione senza precedenti da quando vengono eseguiti i rilevamenti, cioè dal 1905. Mai la crisi idrica ha registrato dati così gravi, perché la falda acquifera è ben sotto i livelli del novembre 2003, che è stato l'anno peggiore. A dirlo l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro nell'incontro con i sindaci interessati dai fenomeni dei pozzi artesiani. Da qui l'iniziativa di un tavolo tecnico già organizzato per lunedì con l'Agenzia di Protezione Ambientale, oltre che con i gestori del servizio idrico e una rappresentanza delle amministrazioni comunali. Intanto, dagli aggiornamenti del consorzio di bonifica Pianura Friulana, è emerso come le ultime piogge abbiano portato solo benefici locali, a fronte della criticità del torre a zompitta che non garantisce l'irrigazione negli impianti delle rogge di Udine e Palma. Necessaria quindi l'individuazione di priorità per assicurare l'irrigazione, che pongono al primo posto il servizio per frutteti e vigneti, seguiti dal mais, e all'ultimo gradino il secondo raccolto della coltivazione della soia, per il quale, in mancanza di prossime piogge, il consorzio non assicurerà il servizio. Diverse le prospettive per il consorzio Cellina Meduna, che al momento conta ancora su scorte e ha attivato il razionamento della bagnatura solo per la zona del Meduna. Ma se per ora c'è ancora un moderato ottimismo, d'obbligo ricordare che tutto dipende però dai futuri capricci di Giove Pluvio. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. La pandemia. Gli ospedali cominciano a sentire la pressione dell'aumento dei ricoveri. In Friuli Venezia Giulia la regione modifica i protocolli di accesso alle degenze. I pazienti con coronavirus ma asintomatici resteranno nei reparti di competenza, non dovranno essere trasferiti in malattie infettive. Gli ospedali del Friuli Venezia Giulia si stanno organizzando per trattare positivi asintomatici nei reparti collegati alla loro patologia, non più in malattie infettive. Con le stesse precauzioni e protocolli dei casi di influenza, incluse procedure di vestizione e svestizione del personale più snelle, perché anche quella mezz'ora compromette la qualità dell'assistenza ai pazienti non Covid. L'assessore alla salute Riccardi sottolinea come solamente il 20-25% dei ricoveri ha davvero bisogno di stare in una malattia infettiva. Nei reparti di isolamento è più difficile organizzare esami radiologici e endoscopici e quindi garantire cure adeguate all'altra patologia per cui sono entrati in ospedale. Si pensi a una frattura. I primari sottolineano che è necessario garantire anche un letto in malattie infettive a chi ne ha realmente bisogno, senza ritardi. Malati di tubercolosi, HIV o vaiolo delle scimmie con necessità di ricovero, meningiti. Si apre ora la riflessione su cosa fare con gli asintomatici. Le regioni stanno lavorando per trovare una posizione comune da portare a Roma. Tre punti allo studio: la riduzione dei punti tamponi, possibile stop al test per chi non ha sintomi, riconoscimento dei kit fai da te e addio al contact tracing negli scenari di alta incidenza. Il Veneto Zaia aveva proposto di reintegrare gli operatori sanitari non vaccinati sospesi per recuperare visite, prestazioni e interventi. Mentre l'obiettivo delle autorità sanitarie italiane è quello di aumentare il numero di vaccinati in vista dell'autunno con la quarta dose, il vicepresidente Riccardi indica come la sua posizione personale sia che gli operatori sanitari debbano essere vaccinati. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Gorizia ha la sua nuova giunta comunale. L'amministrazione Ziberna Bis è composta da 10 assessori, 6 uomini e 4 donne, una metà riconfermata, l'altra all'esordio. Una squadra vera che corra con una macchina da corsa. Così ha esordito il rieletto sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, nel presentare la nuova giunta comunale, rinnovata per metà dei suoi componenti. Confermata Chiara Gatta all'urbanistica, che ricoprirà anche il ruolo di vice sindaco, Arianna Bellan ai grandi eventi, Francesco Del Sordi all'ambiente, Fabrizio Rete alla cultura e Silvana Romano alle politiche sociali. I nuovi volti della giunta invece sono Luca Cagliari alle attività produttive, Sara Felisetti ai lavori pubblici, Maurizio Negro seguirà il decentramento, Paolo Lazzari il personale, mentre all'ex dirigente comunale Lucio Beltrame verrà affidata alla gestione finanziaria del capoluogo isontino. Una giunta di centrodestra, dove Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Lista Ziberna conquistano 2 assessorati a testa e uno a Noi con l'Italia. Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia. Abbiamo limato le deleghe delle singole persone in base rigorosamente alle loro competenze e alla loro esperienza. Il primo cittadino terrà per sé la delega di Gorizia, capitale della cultura del 2025. Un appuntamento dalle grandi aspettative, non solo per la città, ma per l'intera regione. Si tratta di rapportarsi con istituzioni non soltanto regionali e nazionali, ma anche a tutte quelle istituzioni che si rapporteranno nel corso dei prossimi anni, provenienti anche da altre nazioni europee. Tra le prime cose da mettere in cantiere per Ziberna ci sarà la riproposizione in Consiglio Comunale della delibera sulla Tari dopo la clamorosa bocciatura nella parte finale della scorsa legislatura. una posta che vale oltre 1 milione di euro, cifra fondamentale per le casse comunali per l'erogazione dei servizi sul territorio. Il 14 luglio verrà convocato il Consiglio Comunale per la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco e l'illustrazione delle linee programmatiche del Ziberna Bis. Gorizia, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un accordo quadro fra la Regione e gli Atenei di Trieste e di Udine porterà alla predisposizione di uno studio propedeutico al progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione di accessibilità al porto di San Giorgio di Nogaro. Lo schema d'intesa è stato approvato ieri dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive Bini, di concerto con quello all'ambiente Scoccimarro. Il nuovo insediamento industriale nella Ussa Corno, proposto dalla Danieli e considerato strategico dalla Regione, sarà preceduto quindi da un'attività di analisi, studio e ricerca a cura delle due università, finalizzata a coniugare le esigenze di sviluppo del tessuto sociale, fa sapere la Regione, e del contesto ambientale, come era stato condiviso lo scorso 10 giugno nella conferenza istruttoria sul progetto industriale. L'Ufficio Studi di Confartigianato Udine ha elaborato una ricerca che fotografa lo stato della categoria. Aumenta l'età media degli addetti. Nel giro di 10 anni si è dimezzata la quantità degli under 35 ed è cresciuta del 42% la quota degli artigiani con oltre 60 anni. Le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia hanno resistito bene all'impatto del Covid, ma dal 2009 hanno perso quasi il 50% degli under 35. Questo è il quadro che emerge dai dati INPS elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Udine. In dettaglio, dal 2019 al 2021, gli artigiani del Friuli Venezia Giulia iscritti al relativo fondo pensionistico gestito dall'INPS sono calati dello 0,95%. Si sono persi cioè 327 lavoratori autonomi e il numero assoluto attualmente attivo secondo la Cassa Previdenziale è di 34.222 lavoratori autonomi artigiani, il 2,2% della forza artigiana italiana. L'indagine evidenzia anche che quasi la metà degli artigiani del Friuli Venezia Giulia si trova in provincia di Udine, seguita dalla provincia di Pordenone, da Trieste e Gorizia. Continua a essere prevalente la percentuale degli uomini rispetto alle donne, ma è la componente generazionale a registrare la più importante evoluzione nel secondo decennio del 2000. Dal 2009 a oggi, infatti, gli artigiani under 35 sono diminuiti del 47,2% ed è invece cresciuta del 41,6% la percentuale degli artigiani con più di 60 anni. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Si svolgerà il 9 ottobre a Fiume Veneto la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Arriveranno istituzioni da Roma e sarà la prima volta che l'evento si svolge nella nostra regione. Nell'occasione verrà anche ricordato il concittadino di Fiume Veneto, Marco Celant, morto un anno fa in fabbrica. Con oltre 7.600 incidenti sul lavoro denunciati da inizio anno in Friuli Venezia Giulia, più 19% rispetto a tutto il 2021, il fenomeno resta preoccupante. Ne parliamo con la sindaca di Fiume Veneto, Jessica Canton. È un profondo motivo di orgoglio per la cerimonia in sé, ma soprattutto per l'importanza del tema, per la delicatezza del tema. Il Presidente nazionale oggi ci ha ricordato che i dati non sono stabili, non sono in calo, i dati sono in aumento, i dati degli infortuni sul lavoro. Quindi è una battaglia aperta, una battaglia sulla quale dobbiamo lavorare. Portare a Fiume Veneto questa cerimonia, portare a Fiume Veneto la giornata nazionale, vuol dire riconoscere l'importanza di questa sfida. Vuol dire riconoscere le difficoltà delle vittime del lavoro, delle loro famiglie e lottare continuamente con tutte le categorie sociali, lottare continuamente perché ci sia maggiore consapevolezza dell'importanza della tutela nei luoghi di lavoro da parte di tutti gli attori. Voi ricorderete in particolare un vostro concittadino? Noi ricorderemo le vittime fiumane, ma ricorderemo Marco Celant, che ha perso la vita l'anno scorso in un infortunio sul lavoro, lasciando la moglie e due bimbi piccoli. Sicuramente una tragedia che ha colpito la comunità, l'intera comunità, anche perché Marco era molto attivo all'interno della sua comunità, quindi conosciuto e davvero apprezzato. E quindi sarà sicuramente un momento per ricordarlo. Pordenone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Si celebra oggi la festa rituale islamica del sacrificio Eid al-Adha, che commemora il sacrificio di Abramo, durante la quale è tradizione visitare gli anziani e fare regali ai bambini. A Trieste dalle 8 alle 10 il Centro Culturale Islamico di Trieste della Venezia Giulia dà appuntamento ai fedeli al campo sportivo di Via Felluga 58 a San Luigi. Si tratta della seconda ricorrenza più importante per i fedeli di Allah dopo il mese di giugno, ossia del Ramadan. E partiamo con gli eventi musicali della stagione di questa estate. Al Castello di San Giusto per Trieste Estate arrivano stasera alle 21 gli Incognito. Li sentiamo in sottofondo. Uno dei gruppi più influenti sulla scena della musica soul funk mondiale, nati in Inghilterra nel 1976 da una idea di John Paul Blowey, Munich, hanno come riferimento i giganti della musica black degli anni 70, con una lunga evoluzione di stile da lazy jazz, di cui furono quasi gli ideatori, sono ora sempre in bilico fra soul, jazz e funky, mischiando raffinatezza, calore e sensualità. Negli arrangiamenti ricchi di fiati e percussioni traspare infatti la grande passione per la musica che il collettivo britannico porta sul palco e che contagia e coinvolge gli spettatori. Al Castello di San Giusto di Trieste, oggi e domani, dalle 10 alle 18.30, tornano le rievocazioni storiche dedicate alle armi e non solo. La compagnia Almait Arts di Saronno condurrà i visitatori nel XIV secolo, visite storico-didattiche in mattinata e nel pomeriggio. Ed è stata presentata ieri la 23esima edizione di Pordenone Legge. Farina del tuo sacco, questo lo slogan stampato sul manifesto. Le date dal 14 al 18 settembre, con 400 ospiti e 250 incontri. Spighe di grano che si intrecciano, farina del tuo sacco, lo slogan del manifesto dell'edizione numero 23 di Pordenone Legge, una scelta che richiama la crisi del grano in Ucraina ma anche la necessità di cibarsi di cultura. Presentata a Palazzo Badini, la festa del libro per eccellenza che si terrà dal 14 al 18 settembre, 400 ospiti, 250 eventi, una trentina di sedi per 5 giornate. 9 comuni di Pordenone coinvolti, 2 in più rispetto all'anno scorso, e poi Trieste, Legnano. E per la prima volta la rassegna supera i confini nazionali e sbarca nel cuore dell'Europa l'8 ottobre all'Istituto di Cultura Italiana di Praga. Michelangelo Agrusti, presidente della Fondazione. Questa domanda d'Italia, questa vocazione a sapere dell'Italia e della sua cultura, gli istituti di cultura italiani sono pieni di gente che vuole imparare l'italiano, ecco, rende Pordenone Legge partecipe di questa grande offerta che c'è sul mercato culturale dell'Italia. Un focus sugli scrittori ucraini, ma anche il premio Pulitzer 2022 Joshua Cohen, con il nuovo romanzo in uscita a settembre, volti noti del giornalismo italiano e poi tanti autori internazionali, ma soprattutto quest'anno sarà la festa del pubblico finalmente senza limiti. Gian Mario Villalta, direttore artistico. Vogliamo fare un grande assembramento, cioè vogliamo tornare a incontrarci alla vita, stare insieme, a godere di tante cose, tra le quali la parola che viene dalla cultura. Pordenone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Prosegue il festival a Stazione Topolò, oggi con 3 appuntamenti. Verso le 17 in programma l'incontro con la scrittrice ebrea polacca Elena Janecek, autrice della Ragazza con la Leica, premio Strega nel 2018. A seguire Facciamo cose con Giulio. Paola Defendi e Claudio Regeni, insieme al regista e scrittore Pier Francesco Di Liberto in arte PIF, raccontano le travagliate vicende legate alla ricerca della verità sulla morte di Giulio Regeni. Con il buio, ancora PIF, che presenta un'inedita antologia dei momenti più memorabili della sua trasmissione radiofonica, I Sopravvissuti. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple. A Palma Nova, per la rassegna Estate di Stelle, arrivano i Gogol Bordello. La band è pronta a far ballare il pubblico con le sue canzoni che mescolano le melodie gitane dell'Est Europa al punk e al rock, e con la presenza scenica del cantante e autore Eugene Hoots per l'unica data del nord-est del loro Roaring Tour. di origini diverse, est europee e asiatiche. I membri della band si sono conosciuti nelle strade di New York durante gli anni 90 e nel giro di pochi anni hanno elaborato la loro idea musicale fondata sul genere gypsy punk. Fra i loro successi, l'evergreen Immigrant Punk, Not a Crime e Start Wearing Purple, la canzone che stiamo ascoltando. Oh yeah! Inaugurata alle 11 la mostra fotografica dedicata alla Casa Arza negli anni di Pasolini, allestita a Casa Colussi e visitabile fino all'11 settembre. Un'esposizione che raccoglie alcune fotografie degli anni trascorsi a Casa Arza da Pierpaolo Pasolini, raccolte presso famiglie locali, e mostra al visitatore la comunità di Casa Arza, il paese, i singoli individui, come erano ai tempi del grande scrittore e regista. Ne abbiamo parlato con uno dei curatori, Marco Salvadori. La mostra parte da un progetto di un'associazione, il Circolo Fotografico F64, che negli anni passati aveva iniziato un lavoro certosino di recupero di fotografie domestiche, private, familiari, che riportassero alla memoria le immagini di una Casa Arza dimenticata, che guarda caso coincidono proprio con il periodo, con gli anni in cui ha vissuto anche Pierpaolo Pasolini, le permanenze estive, quindi limitate ad un certo periodo dell'anno, e il periodo invece più prolungato, che coincide proprio con gli anni della Seconda Guerra Mondiale, fino a tutto il 1949, quando si chiude in qualche modo l'esperienza casarsese. La mostra quindi vuole veramente usare le immagini con il mitore della fotografia in bianco e nero di una Casa Arza rurale ancora così legata ai riti e ai ritmi di un passato prima di essere in qualche modo rovinata, devastata, trasformata dai bombardamenti. Dunque la mostra è suddivisa per temi. Quali sono? Sono il tema della guerra, i bombardamenti aerei, quindi, che hanno avuto una larga, come dire, eco nella vita cittadina, il lavoro nei campi, le vendemmie, ma anche la sagra del vino, che inizia proprio negli anni immediatamente dopo la fine della guerra, poi il carnevale, le funzioni religiose, i matrimoni, ci sono gruppi più o meno ordinati, il calcio che è un tema così profondamente pasoliniano e così intimamente legato alla sua esperienza e alla sua vita casarsese. Serata di jazz a Udine al giardino Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio. Alle 21.30 si esibirà il gruppo californiano West Coast Chamber Jazz Trio, guidato dal leader, il californiano Noburu Jones, percussionista, DJ e compositore. Ritmi che catturano ed esprimono il ritmo e il battito della vita urbana, sintetizzando l'energia delle percussioni con la comprensione armonica della musica contemporanea. Ora il basket. A Udine ha comunicato l'ingaggio di Rafael Gaspardo. Il giocatore friulano, membro della nazionale italiana, ha scelto di vestire la maglia bianconera a conferma, sottolinea Udine, di quello che sarà un grande campionato con un tasso tecnico degno dei palcoscenici di vertice. Nato a Bressanone il 3 agosto del 93, ala di 207 cm per 100 kg, cresciuto nelle giovanili della Benetton Treviso, Gaspardo si è laureato campione d'Italia Under 19 nel giugno 2011. Al via oggi il Lega Volley Summer Tour al Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro, un torneo di sand volley 4x4 organizzato da Master Group Sport, che vedrà 6 squadre contendersi 3 diversi trofei: la 16ª Supercoppa Italiana, che sarà assegnata a Lignano, la 22ª Coppa Italia e il 27ª Campionato Italiano nei fine settimana seguenti. Agonismo, intrattenimento, spettacolo saranno accompagnati anche da diverse attività che animeranno il villaggio commerciale adiacente ai campi da gioco. Si disputa oggi la tappa Pordenone-San Daniele della 20ª edizione del Giro del Friuli, categoria Juniores. La carovana ciclistica partirà alle 14 dal velodromo Bottecchia e a velocità controllata transiterà lungo le vie dello stadio San Vito, Cappuccini, Tessitura per proseguire verso il territorio del comune di Porcia. I corridori dovranno completare 112,7 km lungo un percorso che prevede il passaggio a Fontana Fredda, Rovereto, San Quirino, Torino, Vivaro, Maniago, Sequals, Pinzano al Tagliamento, Ragogna fino a San Daniele. L'arrivo è previsto verso le 17. E si svolge oggi e domani al Castello di Porpetto il torneo di canoa polo dedicato a Franco Baschirotto, organizzato dall'associazione Natisone Kayak Club. La competizione della disciplina sportiva con la palla che si svolge in acqua e dove i giocatori si muovono in canoa, quest'anno è alla sua 31esima edizione. Partecipano 26 squadre provenienti da tutta Europa, oltre che da Nuova Zelanda e Australia. I numeri della pandemia in apertura del Piccolo di Trieste, 1000 contagi in un mese tra il personale sanitario, ospedali e RSA in difficoltà per assenze e quarantene. Le positività limitano le attività del sistema in maniera importante, dice nell'articolo interno a pagina 5 l'assessore alla sanità Riccardi. Torniamo alla prima, centropagina una foto delle lamine d'acciaio allo stabilimento Arvedi di Trieste, il primo acciaio del mondo a zero emissioni. La notizia è quella della certificazione green conferita dal RINA per le lavorazioni del gruppo siderurgico, zero CO2 e energia elettrica da fonti rinnovabili. Alcuni altri richiami in prima pagina. Sta meglio la bimba che durante un'operazione al Burlo ha avuto un danno ai polmoni causato da un sondino, le lamentele poi per il servizio a singhiozzo della linea marittima Trieste-Grado, dove sono già saltate 7 corse, in basso le nozze vista mare al debutto il 20 agosto a Muggia. Uno sguardo all'interno del giornale, a pagina 8, Lubiana elimina il filo spinato al confine con la Croazia, era stato eretto nel 2015 quale misura antimigranti. A pagina 11 si sposta a Pordenone l'inchiesta sui dragaggi al porto di Monfalcone, inchiesta partita da una denuncia dell'imprenditore Vescovini, la decisione del GIP di Gorizia che ha adottato misure cautelari a carico dei responsabili di una ditta di Sacile e contestualmente ha trasmesso il fascicolo al Tribunale del Friuli Occidentale. Il Messaggero Veneto apre con la siccità in agricoltura, perso il 30% del raccolto. Situazione drammatica per mais e ortaggi, senza altra pioggia la produzione sarà dimezzata. Sono le stime di Coldiretti. La foto in prima pagina mostra un ragazzo in seggiovia, turismo in montagna, impianti aperti fino a settembre. Poi la cronaca sulla colonna destra con l'incidente di Villa Santina, anziana travolta e uccisa, grave un'altra donna. I trasporti, autisti di bus e corriere sul piede di guerra pronti allo sciopero. Poi la sanità, in 800 senza medico nel Medio Friuli, pulmini per andare in ambulatorio. Sul fondo la sfida della cooperativa Cramars e dell'impresa sociale Melius per il futuro delle terre alte. Il Gazzettino di Udine apre invece con il coronavirus. Vaccini Covid, la regione cerca i siti. In autunno potrebbero arrivare i sieri per la variante. Almeno 700.000 persone dovranno essere immunizzate. Poi il turismo, lo ski pass costerà come l'anno scorso. E in fondo il calcio. Arslan non sente le sirene, vuole riprendersi l'Udinese. L'edizione di Gorizia del Piccolo apre con la nuova giunta comunale del capoluogo, le deleghe creative della giunta Ziberna 2. La capitale 2025 è divisa in tre, attività produttive spacchettate, Gatta vice sindaco. È il tema dell'apertura anche delle pagine interne di Gorizia, dove si spiega della capitale europea della cultura si occuperanno il sindaco Ziberna e gli assessori Oreti e Cagliari. I lavori pubblici sono stati staccati dall'urbanistica, le attività produttive, e cioè industria, artigianato e agricoltura, staccate dal commercio. Torniamo alla prima pagina, la foto di centropagina ritrae la sindaca di Monfalcone Cisint ad una fermata della linea 51, quella che a Panzano ha visto gli episodi di violenza da parte di passeggeri per l'affollamento della vettura. E questo è l'argomento di apertura delle pagine del Monfalconese, con un articolo di Tiziana Carpinelli che fa la cronaca di un pomeriggio di confronto della prima cittadina con gli operai e i passeggeri del bus alla fermata dei cantieri a Panzano, ed è emersa la necessità di conciliare meglio gli orari delle corse da Monfalcone a Trieste con gli orari dei turni alla Fincantieri. Il Gazzettino di Pordenone apre con i vaccini. La regione cerca i siti per immunizzare i cittadini in autunno. Nella foto in prima pagina la presentazione di Pordenone Legge. Il Festival del Libro quest'anno guarda verso est. Al centro della pagina, trasporti in crisi, gli autisti fuggono dalle paghe basse. Serie di dimissioni tra ATAP e Arriva. Mancano i sostituti, corse in bilico. Sul fondo, sotto le stelle, quattro influencer rilanciano la città. Il Messaggero Veneto apre con la sentenza in appello per il crack della Fadalti di Sacile. Le condanne da 11 diventano 3, più che dimezzate le pene. Un risarcimento ridotto, un altro azzerato. Poi il Sociale, nel taglio alto, sempre più anziani in difficoltà, reddito di cittadinanza per 475. Nella cronaca, parapiglia tra clienti ubriachi, stop di 15 giorni al bazar. Sul fondo, data mai agli Stati Uniti, 7 furie rosse vanno ai mondiali di tiro alla fune. Performance artistica, gradisca di sonso di fronte alle mura del castello alle 9.30. L'artista della cenere, così è conosciuta nel mondo, Nathalie Van Heule, originaria di Ypres, la città belga incenerita dai bombardamenti della Prima Guerra Mondiale, coinvolgerà 30 persone, fra donne, ragazze e bambini, per produrre impronte dei propri corpi su di un nastro trasportatore in cuoio nell'arco di circa 45 minuti. Le impronte del corpo fluiranno l'una sull'altra in una catena di montaggio messa in moto per rafforzare la connessione umana e il senso del lavoro comune, contrapposto alla distruzione della guerra. La rassegna Villa Manin Estate ospita stasera alle 21 in replica l'opera Notre Dame de Paris con il cast originale che debuttò 20 anni fa. Sul palcoscenico Lola Ponce nei panni di Esmeralda con Jody Tonno nel ruolo del gobbo Quasimodo e Vittorio Matteucci che interpreterà il prete Frollo. I Mandalorians Quartet suoneranno a Casa Lucis di Ribis, di Reana, del Royale per More Than Jazz, con un repertorio dedicato alla musica leggera, alle 21. Per la rassegna Un fiume di note a Gemona del Friuli sul sagrato del Duomo di Santa Maria Assunta, il quartetto di archi e pianoforte trascinerà il pubblico nell'ascolto di danze ungheresi, boeme e zigane alle 20.45. Al rifugio Valinis alle 18, nell'ambito di Note e parole in rifugio, si terrà una conversazione con Raffaella Carnielutti, autrice del docuromanzo Le spiritate di Verzegnis, imperniato sul caso di possessione o isteropatia che nel 1878 portò sulle cronache il paese carnico. Nell'ambito del Festival itinerante della conoscenza Dialoghi a Villesse si terrà il concerto del duo Meriski che rielaborerà con voce e basso alcuni brani pop alle 21. Il duo composto da Giorgio Matteoli al flauto dolce e Stefano Palamidessi alla chitarra si esibirà a Polcenigo al Festival Musica Antica alle 18.30 presso il chiostro della chiesa di San Giacomo, con un repertorio che va dalle musiche moderne di Satie, Grieg al barocco di Telemann, Bach e Handel. Primo appuntamento di musica cortese 2022 alla Corte Marco Daviano del Comune di Gradisca di Sonso con Erru Santiago, una messa di pellegrini sulla via per Santiago, rito multilingue che avrà per protagonista Montalban Ensemble. Si apre in musica l'anteprima della rassegna Avostanis 2022 organizzata dall'Associazione Culturale Colonos. Il concerto Preludio si terrà alle 21 a Villa Caccia di Lestizza. Sul palco il carnico Alvise Nodale, erede originale della canzone d'autore della sua terra, il duo Soffitti Calpestabili e il musicista Alessio Velischik. Nelle antiche carceri di San Vito al Tagliamento alle 17 si apre la mostra Libri di Versi, esposizione di libri d'artista e libri oggetto, in gran parte pezzi unici, nata dalla collaborazione di più di 40 tra poeti e artisti visivi provenienti da diverse regioni d'Italia e dalla Slovenia. E adesso diamo uno sguardo ai programmi della nostra sede. Alle 11.30 la prima puntata di Parapapunzi, rivista radiofonica in dialetto triestino, realizzata realizzata nel 1992, nata nel solco del Campanon. A mezzogiorno prende il via Bon Bon, 30 minuti di umorismo in cui succede di tutto e tutto può succedere, una costellazione di gag che guardano la nostra regione con potenti lenti ironiche e una buona dose di nonsense. Sono le 7:53 minuti. L'assistenza tecnica è stata assicurata da Federico Comer e da Walter Bidonis. Ha collaborato in redazione Valentina Beneruso. Per il momento ci fermiamo qui. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione su questa frequenza all'edizione delle 12:30 e poi su Rai 3 il telegiornale. Grazie della cortese attenzione da Livia Liberatore e da Antonio Caiazza. Buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.